che usate parole diverse, le stesse prigioni. Da qualche parte un giorno, dove non si saprà, dove non l'aspettate, il cielo tornerà. Da qualche parte un giorno, dove non si saprà, dove non l'aspettate, il cielo ritorna.